Compiuti gli ultimi riti, Françoise, che era d'un tempo, come nella chiesa primitiva, il celebrante d'uno dei fedeli, si versava un ultimo bicchiere di vino, si slacciava dal collo il tovagliolo, lo piegava tergendosi dalle labbra una traccia d'acqua tinta e di caffè, l'infilava in un anello, ringraziava con sguardo dolente il suo giovane lacchè che per fare lo zelante le diceva: «Su via, signora, ancora un po' d'uva, è squisita!» e s'affrettava ad aprire la finestra col pretesto che in quella miserabile cucina faceva troppo caldo. Gettando con destrezza, mentre girava la maniglia della finestra per prendere una boccata d'aria, un colpo d'occhio disinteressato verso il fondo del cortile, ne coglieva la furtiva certezza che la duchessa non fosse ancora pronta. Covava per un attimo, con occhiate sdegnose e appassionate, la carrozza con i cavalli già attaccati, e concessa ai propri occhi questa istantanea attenzione per le cose terrene, subito li alzava al cielo, che aveva già indovinato terso dalla dolcezza dell'aria e dal tepore del sole, e fissava all'angolo del tetto il punto dove, ogni primavera, venivano a fare il loro nido, proprio sopra il camino della mia stanza, dei colombi simili a quelli che tubavano nella sua cucina a Combré. «Ah!» esclamava, «Combré, Combré!» E il tono quasi cantato con cui declamava questa invocazione avrebbe potuto far supporre, come l'arlesiana purezza del suo volto, che Françoise fosse di origine meridionale e che la patria perduta e in tal modo rimpianta non fosse che una patria adottiva. Ma forse sarebbe stato un errore, perché non c'è provincia, si direbbe, che non abbia il suo mezzogiorno. E in quanti savoiardi, in quanti bretoni si ritrovano le dolci trasposizioni di lunghe e di brevi che caratterizzano i meridionali. «Ah, quando mai ti rivedrò, Combré, povera terra mia? Quando potrò passare tutto il santo giorno sotto i tuoi biancospini e i nostri poveri lillà a sentire i fringuelli e la vivon che fa come uno che bisviglia invece di questo sciagurato campanello del signorino che non se ne sta neanche mezz'ora senza farmi correre su e giù per quel maledetto corridoio? E gli sembra anche che vado troppo adagio. Si dovrebbe sentirlo prima che abbia suonato e se arrivi con un minuto di ritardo, ah, oh, gli vengono delle rabbie da far paura. Ah, povera Combré, forse ti rivedrò solo dopo morta, quando mi butteranno come un sasso nel buco della tomba. Allora non li sentirò più, quei tuoi bei biancospini tutti bianchi. Ma nel sonno della morte credo che queste tre scampanellate le sentirò ancora, dopo che m'avranno fatto dannare in vita.» Ma ad interrompere Françoise giungevano i richiami del farsettaio del cortile, quello stesso che era tanto piaciuto alla nonna, quando, tempo prima, era andata a trovare Madame del Villeparisis e che occupava ora un rango non meno elevato nelle simpatie di Françoise. Sentendo che la nostra finestra si apriva, aveva alzato la testa e già da qualche minuto cercava ad attirare l'attenzione della vicina per augurarle il buongiorno. Allora la civetteria della fanciulla che Françoise era stata affinava a beneficio del signor Jupien il viso imbronciato della nostra vecchia cuoca appesantita dagli anni, dal malumore e dal calore dei fornelli, ed era con un'incantevole mescolanza di riserbo, di confidenza e di pudore che ella rivolgeva al farsettaio un grazioso saluto, senza tuttavia rispondergli a voce, giacché se infrangeva le raccomandazioni di mia madre sbirciando giù in cortile, non avrebbe osato sfidarle fino al punto di conversare dalla finestra, cosa che, secondo Françoise, rischiava di attirarle da parte della signora un vero e proprio quaresimale. Gli indicava il caleste con la pariglia già attaccata, con l'aria di dire: «Bei cavalli, eh?» ma mormorando fra sé: «Che catorcio!» E soprattutto perché sapeva che l'altro le avrebbe risposto, con la mano accostata alla bocca per farsi udire pur parlando a mezza voce: «Anche voi potreste averne se voleste, e magari più di loro, Ma a voi non piacciono queste cose? E Françoise, schermitasi con un gesto modesto, evasivo ed estasiato che voleva dire all'incirca «a ciascuno il suo genere, qui siamo per la semplicità», richiudeva la finestra temendo che arrivasse mia madre. Quel «voi» che avrebbero potuto avere più cavalli dei Guermantes eravamo noi, ma Jupien aveva ragione a dire «voi», dal momento che, eccettuati certi piaceri d'amor proprio strettamente personali, per esempio quello di pretendere con un sogghigno irritante quando tossiva insistentemente e tutti in casa avevano paura di prendersi la sua infreddatura, che non era per niente raffreddata, Françoise, simile a quelle piante che un animale, cui esse sono del tutto unite, nutre con alimenti che cattura, mangia, digerisce per loro, offrendogliene l'estremo e perfettamente assimilabile residuo, viveva in simbiosi con noi. Spettava a noi, con le nostre virtù, il nostro patrimonio, il nostro tenore di vita, la nostra posizione, il compito di elaborare le piccole soddisfazioni di amor proprio che costituivano, con l'aggiunta del diritto riconosciuto di esercitare liberamente il culto della colazione secondo la vecchia consuetudine comprendente la successiva boccata d'aria alla finestra, di qualche indugio per la strada quando andava a fare la spesa e di un'uscita domenicale per recarsi in visita dalla nipote, che costituivano la dose d'appagamento indispensabile alla sua vita. E quindi comprensibile come Françoise, i primi giorni, avesse potuto deperire assalita, in una casa dove tutti i titoli onorifici di mio padre erano ancora sconosciuti, da un male che lei stessa chiamava la noia, noia in quel senso energico che la parola ha in Corneille o nelle lettere dei soldati che finiscono col suicidarsi perché, lontani dalla fidanzata e dal paese, si annoiano troppo. La noia di Françoise era stata rapidamente guarita dal solito Jupien, che le procurò subito un piacere altrettanto vivo e più raffinato di quello che lei avrebbe provato se ci fossimo decisi a tenere una carrozza. «Gran brava gente, questi Julien!» Françoise tendeva ad assimilare le parole nuove a quelle che già conosceva. «Ah, bravissime persone, e ce l'hanno scritto in faccia!» Jupien, in effetti, seppe capire e far capire a tutti che se non avevamo la carrozza era perché non volevamo averla. L'amico di Françoise stava pochissimo in casa, avendo ottenuto un impiego in un ministero. Dapprima farsettaio con una giovanissima aiutante che la nonna aveva scambiata per sua figlia, non aveva avuto più convenienza a continuare quel lavoro quando la piccola, che ancora bambina, quasi, al tempo in cui la nonna era venuta a far visita a Madame de Villeparisis, sapeva già rammendare una gonna a regola d'arte, si era dedicata alle confezioni per signora divenendo, appunto, sarta di gonne. Entrata come piccinina in una sartoria, dove le facevano mettere un punto, ricucire un volant, attaccare un bottone o un automatico, stringere un abito in vita con dei ganci, era passata presto prima lavorante e poco dopo sarta, e poiché si era fatta una clientela di signore della migliore società, lavorava a casa sua, cioè nel nostro cortile, per lo più con una o due compagne di laboratorio che impiegava come apprendiste. Da allora la presenza di Jupien si era fatta meno utile. Naturalmente la piccola, ormai grande, doveva fare spesso ancora dei gilet, ma grazie alle amiche non aveva più bisogno di nessuno. Così Jupien, che era suo zio, aveva cercato un impiego. I primi tempi era libero di tornare a casa a mezzogiorno. Poi, avendo sostituito definitivamente la persona di cui all'inizio era stato semplice aiutante, non prima dell'ora di pranzo. La promozione di Jupien avvenne per fortuna solo qualche settimana dopo il nostro arrivo, in modo che la sua gentilezza poté esplicarsi abbastanza a lungo da aiutare Françoise a superare senza troppo soffrire quel primo difficile periodo. D'altronde, senza voler disconoscere l'utilità del ruolo che egli svolse per Françoise di medicina di transizione, devo confessare che Jupien, così di primo acchitto, non mi era piaciuto granché. A vederlo da vicino, annullando del tutto l'effetto che le gote paffute e il colorito florido avrebbero altrimenti prodotto, i suoi occhi straripanti di uno sguardo compassionevole, sconsolato e sognante, facevano pensare che fosse molto malato o che di recente l'avesse colpito un grave lutto. Non solo non era affatto così, ma a sentirlo parlare, con perfetta proprietà d'altronde, risultava piuttosto freddo e beffardo. Da tale disaccordo fra il suo sguardo e la sua parola emergeva qualcosa di falso che era tutt'altro che simpatico e di cui pareva che egli stesso provasse imbarazzo, come un invitato in giacchetta a una serata dove tutti sono in abito da società o come qualcuno che, dovendo rispondere ad un'altezza, non sappia esattamente in che modo le si debba rivolgere e aggiri la difficoltà riducendo pressoché a zero il proprio dire. È un semplice paragone. L'eloquio di Jupien era al contrario incantevole. In corrispondenza, forse, con quell'inondazione del viso da parte degli occhi, alla quale, conoscendolo, non si prestava più attenzione, gli scopersi ben presto un'intelligenza rara e fra le più naturalmente letterarie che mi sia stato dato conoscere, nel senso che, probabilmente senza cultura, egli possedeva o aveva assimilato, col solo ausilio di pochi libri scorsi frettolosamente, le più ingegnose risorse della lingua. Le persone più dotate che io avessi conosciute erano morte giovanissime. Così ero convinto che la vita di Jupien sarebbe finita presto. C'erano in lui bontà e pietà, i sentimenti più delicati, più generosi. Il suo ruolo nella vita di Françoise aveva rapidamente cessato d'essere indispensabile. Era riuscita a sostituirlo. Persino quando un fornitore o un domestico veniva a portarci un pacco, Françoise, pur affettando di non fargli caso e limitandosi a indicargli una sedia con aria distaccata, senza interrompere il lavoro, metteva così abilmente a profitto i pochi istanti che egli trascorreva in cucina in attesa della risposta di mia madre, che ben di rado lo lasciava andar via senza avere indistruttibilmente scolpito in lui la certezza che se non l'avevamo era perché non la volevamo. D'altronde, se a Françoise premeva tanto che si sapesse che avevamo di denaro, ignorando l'uso corretto di quelli che Saint-Loup chiamava gli articoli partitivi, diceva avere di denaro, portare d'acqua, che fossimo considerati ricchi, non era perché la ricchezza fine a se stessa, la ricchezza senza virtù, rappresentasse ai suoi occhi il bene supremo, ma nemmeno la virtù senza ricchezza era il suo ideale. Per lei, la ricchezza era come una condizione necessaria della virtù, in mancanza della quale la virtù sarebbe priva di merito e di fascino. Distingueva così poco l'una dall'altra che aveva finito con l'attribuire alla prima le qualità della seconda e viceversa, attendendosi qualche agio dalla virtù, ravvisando un che di edificante nella ricchezza. Richiusa abbastanza rapidamente la finestra, se no la mamma le avrebbe detto dietro, pare, tutte le ingiurie possibili e immaginabili, Françoise cominciava sospirando a rassettare la tavola della cucina. «Ci sono dei Germans che stanno in Rue de la Chaise», raccontava il cameriere. «Avevo un amico che aveva lavorato lì, era secondo cocchiere». E conosco uno, non il mio amico però, un suo cognato, che aveva fatto il soldato nello stesso reggimento con un sorvegliante del barone di Germain. E in fondo, amen, non è mica mio padre, concludeva, avendo l'abitudine, oltre che di canticchiare motivi di successo, di condire i suoi discorsi con le ultime spiritosaggini. Françoise, con la stanchezza dei suoi occhi di donna ormai anziana, che peraltro vedevano tutto da Combré in una confusa lontananza, percepì non già la spiritosaggine che era in quelle parole, ma il fatto che doveva essercene una, in quanto non avevano alcun rapporto con lo sviluppo del racconto ed erano state pronunciate con forza da qualcuno che conosceva per un tipo ameno. Sorrise quindi con aria benevole e ammirata, come per dire «Ah, sempre lo stesso il nostro Victor!» Era felice, comunque, perché sapeva che ascoltare simili battute ha qualche vaga parentela con quegli onesti piaceri di società in vista dei quali, in ogni ambiente, ci si affretta a farsi belli e si rischia anche di prender freddo. E poi era convinta che il cameriere fosse un amico, giacché le parlava sempre con indignazione degli orribili provvedimenti che la Repubblica stava per adottare contro il clero. Françoise non aveva ancora capito che i nostri più spietati avversari non sono quelli che ci contraddicono e cercano di persuaderci, ma quelli che enfatizzano o inventano le notizie di cui possiamo rammaricarci, guardandosi bene dal fornire loro un'apparenza di giustificazione che attenuerebbe la nostra afflizione e ci ispirerebbe, forse, un minimo di stima per un partito che essi, invece, quasi a rendere completo il nostro supplizio, tengono a mostrarci non meno atroce che trionfante.